il tempo in chat e guardo dentro in ogni stanza. Se vedo due commenti non riesco a stare senza. Esprimo un'opinione dando sfoggio di ignoranza. Spiattello il mio pensiero con barbarie e tracotanza. Non puoi discutere con me, ho ragione, sai perché. Mi sento un gran profeta anche se sembro analfabeta. Sono cinico, cinico, me ne freghi sta piede libero, libero. A contrastarti sarò rapido, rapido. Lo trovo un metodo più pratico, pratico. Sfondo il tuo mondo perfetto, non mi fa caldo nel freddo. Sono cinico, cinico. Lo sai, non mi interessa che tu abbia un'opinione. Seguo le tue idee perché la mia è già la migliore. Te le espongo con dovizia, quasi forse un giornalista. Tutto il mondo va a ramengo, sono proprio un disfattista. Certo non può migliorare, lo so come andrà a finire. Tanto non cambia mai nulla, lo dicevo già in culla. Sono cinico, cinico. Disprezzo l'occhio clinico, clinico. Quando ti arrabbi sono al massimo, massimo. Sono insensibile ma pratico, pratico. Lascio tutto quel che passa, tanto a me che mi interessa. Se mi tiri su una vega non farò neanche una piega. Trino, manco so come ti chiami. Il mio vocabolario preso non lo do bignami. Ma che ci provi a fare, stai perdendo solo tempo. E te lo dico io che ho una laurea tutto campo. Sono fonte di saggezza, un pilastro di certezza. Ho una fonte sopraffina, me l'ha detto mia cugina. Sono cinico, cinico. Me ne freghi sta piede libero, libero. A contrastarti sarò rapido, rapido. Lo trovo un metodo più pratico,